America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, parliamo di Afghanistan. La settimana scorsa è stata per noi in Italia una settimana difficile. Abbiamo assistito ai funerali dei quattro alpini uccisi sul fronte afghano. Si è dibattuto molto nel corso della settimana sulle ragioni di questa guerra. Abbiamo visto degli sviluppi sul piano internazionale. Ad esempio, abbiamo saputo che sono stati aperti dei canali di comunicazione con i talebani per cercare di coinvolgerli nel processo di pace e quindi molto fermento e alcune posizioni critiche. Abbiamo con noi ai microfoni di America 24 Giuliano Ferrara. Buongiorno Ferrara. Buongiorno Patero. Vorrei leggere un piccolo estratto di un articolo che lei ha scritto che ha destato un po' di sensazione in Italia. Lei dice: morire per Kandahar o per Fallujah allora ebbe un senso, si riferiva ai tempi dell'amministrazione Bush. Aveva un senso il sacrificio dei raipiti, le cui teste rotolarono dopo sommari processi coranici. Bush e gli americani e gli europei che lo seguirono con entusiasmo nella prima fase della battaglia dopo l'11 settembre si muovevano sulla frontiera grande della politica e della guerra. Mentre Obama si muove su una linea grigia che non sa più fare la guerra e non sa fare la pace. Ecco, la sensazione è che prima valeva la pena di fare la guerra, oggi non vale più. Le guerre Bush le ha fatte dopo l'11 settembre con una visione: esportare la democrazia nel mondo arabo musulmano, cioè costruire le condizioni per un rivolgimento politico strutturale, per costruire nazioni, il nation building, sul quale Bush all'inizio era assolutamente scettico, e quindi costruire nazioni che diventassero testimonial con le loro elezioni, con il loro dito nell'inchiostro, con un tentativo di darsi strutture costituzionali e che fossero l'apertura di una nuova via. Quando cade questo orizzonte, quando non c'è più questo scopo politico, le guerre sono brutte, l'unica cosa che le nobilita è lo scopo. La mia impressione è che con Obama, che viene non a caso chiamato anche dai suoi apologeti un soldato riluttante, abbiamo perso lo scopo e allora abbiamo strategicamente, come visione delle cose, perso anche la guerra. Quindi lei conferma che in queste circostanze forse un paese come l'Italia potrebbe uscire anche immediatamente? Sì, se il comandante in capo dell'esercito più potente del mondo, il presidente Obama, che anche attraverso i suoi generali, la linea di comando, insomma il responsabile ultimo delle azioni belliche su questi fronti, ha sostanzialmente rinunciato a vincere, ha sostanzialmente rinunciato a definire un percorso credibile con una visione dentro e uno scopo dentro che giustifica la guerra, secondo me è molto meglio tornarsene a casa. Ecco, sarò provocatorio però, perché Prego. In realtà qualcuno dice che Obama sta seguendo esattamente la linea di Bush, così come Bush in Iraq si spostò in avanti e fece una grossa offensiva per poi cominciare a intessere un dialogo più concreto sul piano locale per poi preparare l'uscita, lo stesso si sta facendo in Afghanistan. Vorrei farle sentire un momento questa dichiarazione che mi ha fatto Staffan de Mistura, che è l'alto rappresentante delle Nazioni Unite in Afghanistan, un paio di settimane fa. Vedremo in futuro un aumento ulteriore di pressione militare. Queste erano annunciate e preannunciate, quindi non dobbiamo sorprenderci. Come non dovremmo sorprenderci nel vedere dei contrattacchi o dei tentativi di contrattacchi da parte dell'altra parte dei talibani per poter in qualche maniera marcare da parte loro il fatto che questa pressione ha o meno effetto. Questo purtroppo fa parte sempre di quel periodo in cui ci sono le negoziazioni calde. Ecco, Staffan de Mistura dice che siamo nel mezzo di un negoziato caldo e quindi ciascuno cerca di avanzare la sua posizione. Il problema è che lui ha fatto tutto quello che ha fatto Bush, tranne una cosa: ha tolto lo scopo, il significato di ciò che si fa. Ma lei non crede che Bush avrebbe fatto la stessa cosa a questo punto, cioè chiusa la battaglia irachena come da copione? Anche in Afghanistan ci sarebbe stato un surge identico, si sarebbe costretta la controparte al dialogo e una riconciliazione nazionale fa parte dell'obiettivo della democrazia. Le elezioni ci sono in Afghanistan. Certo, anche il finale di Bush, il tramonto politico del secondo mandato della Casa Bianca andava un po' in questa direzione, cominciava a manifestare delle incertezze, però le guerre di Bush avevano questo sapore. Il discorso di inaugurazione del secondo mandato era questo, il suo modo di parlare all'esercito, agli americani era questo. Noi non è che andiamo lì per caso, andiamo lì per il regime change, andiamo lì perché c'è un più vasto Medio Oriente allargato nel quale bisogna intervenire con le armi della democrazia attraverso il soft power ma anche l'hard power della presenza militare. I soldati che morivano nella guerra di Bush erano gli eroi di una grande impresa politica costruita dalla coalizione dei volenterosi, nella quale si è creduto in buona fede e io personalmente, storicamente, credo ancora che fosse la risposta giusta. Oggi tutto questo si è dissolto. Obama giustamente ha un altro problema, scrive una lettera a Mandela, si ritiene il riscopritore, diciamo, di una dimensione altra della stessa politica e è il pupillo delle folle europee che si accalcano quando lui viene ai suoi comizi intorno a lui come profeta di pace, di pacificazione. D'altra parte, hanno fissato o no il ritiro dall'Afghanistan? Sì, al 2011. Bene, la partita è persa, perché se tu fissi il ritiro di quei talebani, che non sono certo delle mammolette, che anzi sono dei combattenti e sono un fenomeno anche oscuro ma glorioso a suo modo, perché sono gli studenti di teologia che si improvvisano regime politico islamista, e i talebani non è che stanno con le mani in mano, se tu annunci che te ne vai, cominciano a colpirti. Vorrei proporle un altro intervento di demistura. Adesso è molto importante accelerare le possibilità di un dialogo, nello stesso tempo riconoscere che c'è una fase militare che sta avendo luogo e in qualche maniera sta procedendo. In poche parole, due binari, come spesso avviene in queste fasi critiche di un inizio, di una fine, di un episodio di guerra. Secondo me negli episodi di guerra non è possibile che la fine abbia una storia lunga. Non so se mi spiego, la fine deve essere il prodotto di un'azione coerente con i principi da cui parte, con le premesse da cui parte. Fino all'ultimo momento tu devi cercare di mostrare il tuo volto orgoglioso, battagliero. È una prova di forza una guerra. Ci sono anche 3.000 soldati americani che hanno perso la vita, certo, sul campo. Sì. C'è un paese, c'è una nazione. Allora le chiedo, non è più giusto... Io anche in quell'articolo che lei ha avuto la bontà di citare, Platero, io ho anche detto non si possono fare colpi di testa, alzate l'ingegno, bisogna discutere con gli alleati. La mia cosa è anche un po' provocatoria, c'è anche un po' del paradosso. È evidente che non è che si può tornare a casa così in polemica con la conduzione della diplomazia da parte della Casa Bianca. Quindi staremo in polemica, ma restiamo fino alla fine anche noi. Beh, insomma, dobbiamo restare, diciamo, in un circuito di solidarietà occidentale che certo non possiamo spezzare. Gli italiani dovrebbero prendere delle iniziative per spiegare che bisogna finirla di parlare del ritiro, che bisogna veramente dare una delega piena al generale Petraeus nel fronte afghano e che bisogna porsi il problema anche degli altri fronti. La parola riluttante non l'ho usata io, l'ho usata Repubblica, l'ho usata Vittorio Zucconi, insomma le guerre riluttanti non stanno né in cielo né in terra. Bene, grazie a Giuliano Ferrara. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter, 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno di Sufjan Stevens, Age of AIDS. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.